and girls, your attention, please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa e un saluto da Drago. Cominciamo subito a sprombattuto con i risultati concreti della riforma Gelmini. Ma no, ma ce l'hai sempre con sta la Gelmini, la bambina, Gelmini. Ma lasciala in pace, povera Kappa, Gelmini. Devi fartene una ragione, noi siamo in un asilo e quindi è lei il nostro ministro di riferimento. Vabbè. Comunque, in questo caso la bambina Gelmini entra solo di striscio, perché in realtà i veri protagonisti della vicenda sono gli insegnanti precari rimasti senza lavoro dopo la riforma. E cosa fanno? Salgono sulla ciminiera? Magari, partecipano a un reality. Ah sì, l'ho sentito dire. Ecco, sì. Vedi, non ti stupisci nemmeno. Hai sentito dire, chi se ne frega. Guarda che Canale 5 sta facendo il casting per un reality in cui insegnanti precari rimasti senza lavoro si sfidano e chi vince ottiene 10 anni di stipendio. Il ministero toglie, Canale 5 dà. Allora, domanda troppo scontata: chi c'è a capo dei ministri e anche a capo di Canale 5? Vabbè, ma che c'entra? Ma che significa? Bambino Cruciani. Vabbè, niente. Comunque, l'Italia ormai è diventata un romanzo di Don DeLillo o di David Foster Wallace. Qualsiasi fantasia malata e soprattutto puerile è soddisfatta. Anche le cose serie come la disoccupazione vengono spettacolarizzate, disinnescate da una continua messa in scena. I problemi diventano giochi e la realtà diventa un reality. Bravo. Grazie, grazie. Bravo. Grazie. Bravo. Senti che roba, eh? Bravi questi qua, li hai pagati tu la classe. Sì, ho preso gli stessi che stanno davanti al tribunale. Uh-huh. 20 euro più panino e bibita. Un bel servizio, te lo consiglio. Me ne fate un altro? Sì, aggiungiamo pure il caffè, va bene, però prima un altro applauso. Grazie. Grazie, grazie. Visto? Bravi. Chi è questo qua che parla? Parla dai cinesi. Questo qua è Beijing, no? Ah, ma come? Aveva una voce, diversa. Come? Certo. Si sente l'uomo sotto. C'è il vocoder. Ah, è un vocoder. Ah, è per le vostre. Parla un po' col vocoder. È un apparecchio nuovo che è arrivato stamattina. Parla col vocoder. Senti che voce. Adesso basta. Ah. No, non svelare tutto, no? Perché un vocoder eccezionale. Perché state lavorando. Le nuove basi, il freestyle. Performance. Abbiamo sentito, con grande successo anche su Facebook la versione di Volentierissimo. Ah, bellissima canzone, bravissimi. Molte domande su chi è la voce che ti fa da coro con la voce scura che dice Gildo, quello bisogna ringraziarlo. Com'è che fa? Fammi sentire, fa Gildo. È grande questo qua. Ma non ci dici chi è? Chi è un tuo amico? Chi è? L'ho conosciuto tramite Gino, il bidello. Ah, l'ex bidello, sì. Eh sì, però prima di andare via. Sì. Mi ha detto, nel caso avessi bisogno, ti do un numero di cellulare. Ah, per? E questo è suo amico. Qualsiasi cosa, no? No, che cosa? Cioè, sei un bambino. Sì, sincero. Bidello, ti do un numero di telefono. Adulta? Cioè, qui la polizia comincia. Adulti, esatto. Allora, i genitori sono in giro a fare campagna elettorale? Allora io mi arrangio, no? Devo prendermi un tutore. E ti ha dato. Prima era lui il mio tutore. Ma adesso, non c'è più. Adesso ho fatto il numero di telefono di Abram. Abram? Si chiama Abram. Vabbè, si chiama Abram, un bambino di colore. Africana, musulmana. Bambino mica tanto, perché c'ha il vocione, quello che dice Gildo. Ma quello lo fa per atteggiarsi, no? Perché è un po' sulla difensiva. Sì, ma quanti anni ha? 32. Gildo. Bambino Alberto, sono più di 6 mesi che sei qui all'asilo. Puoi dirci cosa hai imparato stando qui? Tante cose. Quindi? Cioè, per esempio, ho imparato a lavarmi le mani prima di mangiare i finocchi cotti. Perché a casa non ti lavavi le mani prima a di mangiare? A casa me le lavava la mamma, no? Io però facevo resistenza passiva, Cioè? Io stavo fermo, con le braccia rigide come un cadavere. Ma lei me le lavava. Ma lei me le lavava. Gildo. Ma lei me le lavava lo stesso. Ma lei ti lava le mani lei? Ma che senso ha? Vabbè. Ma poi che cosa hai imparato? Alle mani, dai, su, cos'è? Hai imparato a lavarti le mani? Allacciarti le scarpe anche? No, mi interessa no quello che hai imparato. Dai, insomma. Adesso ne dico una. Già una palla, sti interviste. Ne dico una forte. Vai, sì. Ho imparato che siamo tutti figli di Gesù. Beh, insomma, figli di Gesù non è tanto preciso, però va bene. Lo so. Siamo anche un po' figli della Madonna. Eh no, Alberto, stai facendo un po' di confusione, capito? Ma, sì, ma lasciami finire, lo so, siamo anche un po' figli di Dio. Solo che a un certo punto diventa tutto troppo complicato, no? Tutte queste parentele alla lontana. Lo so, un po' così. Già, sì. Quando mia mamma mi spiega che è una vecchiaccia orrenda e la nonna dello zio del cognato di mio cugino, io mi perdo, no? Giusto. E figuriamoci con una parentela che parte da Adamo ed Eva. Lo so. Però non è che sia proprio una parentela, bambino Alberto. No, cioè, chi è che gli spiega le cose in termini di parentela? Vabbè, le suore, no? Suore. Chi vuole che gliele spieghi? Sentite un po'. Sì. Già che ci siete, non è che potete spiegarmi cosa c'entra in tutto sto giro un po' intrigato lo Spirito Santo? Lo Spirito Santo non l'ho mai capito nemmeno io, quindi non posso aiutarti. E San Giuseppe? San Giuseppe! È uno che ci mette del suo nella storia o è una comparsa, un figurante? Ma dai, adesso lasciamo, passiamo ad altro. Sì. Ma cos'è sta roba? Vabbè, dai. Quali altre cose hai imparato all'asilo? Che non si dicono le parolacce. Bravo, cioè hai imparato, però non è vero che hai imparato. Sì, ma no, ti spiego, all'inizio le suore erano severissime. Sì. Ti sorvegliavano, ti stavano dietro come dei corvacci. E appena aprivi bocca partiva la prima bastonata. In caso di parolacce. Però poi... un giorno hanno smesso di controllare. Perché? Perché da quando c'è il parolacciometro. Sì. Qui l'impressione, non solo mia, di tutti noi, è che le parolacce quasi quasi ci vengono incoraggiate. Ma come? Ma non è possibile. Ma, ma guarda che è un po' come le telecamere per Milano. Per le multe. Allora, prima era un'ossessione continua. Non dite parolacce, una bastonata. Poi invece da quando le parolacce sono punite con la multa pecuniaria. Pecuniaria. Qui è già tanto che non ci obbligano a dire le parolacce. Però hai ragione tu, capo, perché ormai le scuole e gli asili non sanno più come finanziarsi, perché mancano i fondi, la bambina Gelmini, ahimè, fa le riforme con Tremonti. Comunque, torniamo a bomba. A bomba, dai. In questi mesi qui dell'asilo ho imparato anche che non si bara al gioco. Oh, bene, questo direi che è un bel insegnamento, finalmente. Però l'ho imparato sulla mia pelle. Cioè, perché io sto parlando di quella famosa gara che voi sapete già di chi ce l'ha più lunga, no? Sì. Sapete che io, mi appassiona, per vincere una volta per tutte contro il bambino Mbutu, avevo escogitato il trucchetto del righello. Sì. Il righello truccato. Il trucco del righello truccato, vabbè. E mi hanno scoperto. Che figura che hai fatto. Così adesso non posso più partecipare alle gare. Ah, ecco. Perché mi hanno squalificato. Giusto. E fanno mobbing, Questo è mobbing. Cos'è mobbing? Ma sono parole che impari a casa. Infatti, così, se non ma se loro credono che io cambi asilo solo perché loro fanno il mobbing dei prepotenti? Si sbagliano. Vabbè, ma comunque dai, bambino Alberto, ci sono mille altri giochi più intelligenti e interessanti, no? E quindi direi che si potrebbe stare tranquillo, no? Scusa, l'unico vero gioco è chi ce l'ha più lungo. Ma non è vero. Ma gli altri sono dei palliativi. Tu dici che quello è l'importante, cioè il campionato è quello lì. Ma sì, tu divaghi, ma è lì che vuoi andare. Adesso gioco con Gildo. Ah, Gildo, il tuo amico immaginario, immagino che sia una bella gara. No, immaginare, tanto Gildo non mi ha abbandonato. Gioco con Gildo e vinco sempre. Perché lui non sa che mi ho regalo truccato. Vero Gildo? Vecchierissimo. No, ma non c'è nessuno, bambino Alberto, inutile che fai le domande. E questo chi sarebbe allora? Vecchierissimo. È Gildo, no? Vecchierissimo. Ma hai imparato sta nuova parola, Allora, mi senti? Yeah, I hear you. Ok, allora, facciamo che io facciamo il freestyling e tu facciamo il coro. Volenterissimo. Gildo, che noia mortale giocare da solo a battaglia navale. Gildo, sono triste e solitario. Gildo, facciamo che tu eri Gildo, il mio amico immaginario. Freestyling. Gildo. Vai con la base. Gildo. Sei come un fantasma. Gildo. Nessuno ti vede. Gildo. Ma c'hai la voce con l'asma. Gildo. Gildo. Siamo culo e camicia. Gildo. Io sicuramente sono la camicia, quindi necessariamente devi fare il coro. Volentierissimo. I wanna get a fight freestyling. Gildo. Facciamo merenda. Volentierissimo. Giochiamo in rinvii. Volentierissimo. Montiamo una tenda. Volentierissimo. Giochiamo la Wii. Volentierissimo. Facciamo una festa. Volentierissimo. Chiamiamo due escort. Volentierissimo. Anzi, due a testa. Lo dico a quel bambino che si chiama Alberto, adotti il tunisino che viene dal mare aperto. Chiedo asilo. Continuiamo a leggere queste quartine che arrivano da una... ho capito, sai, c'è scritto qua, in fondo al messaggio, c'è diesis, cioè cancelletto, footer. Vabbè, ma grazie a cancelletto footer. Grazie per questa quartina che è un po' la riproposizione di quella che abbiamo anche già potrebbe cantato ieri. Anche no? Sans Serif, però. Ma sì. Ma sans serif è...